Marcel, per favore ti avvicini. Abdel, puoi venire per favore? Generato, poi ventole del generatore convogliatore, ventole d'ore. Graziano, Gian Marì? Quanti, chi è? E chi può essere? Ciao Gian Marì. Da dove ti stai sbagliando? Chi sei? Salvatore. Allora, avete lo passo. Buonasera anche a lei, signor Battisio. Ciao Mari! Ciao Mito, sì! Ehi, buonasera a lei, signor dottore. Non ci piace anche Luca. Luca, avanti, buonasera. Buonasera a voi, ciao dottore. Ehi, catta cos'è? Ma dato no. Ma cosa hai fatto? Sicuramente... Aia. E quando una cosa non la curi e poi... chi sa la messa? No, ma chi? Gesù ha pillato qualche cosa e no, non è rimasto qualche pezzo. Cosa male. E c'è qui un po' di Graziano. Ma Graziano, uia. No, è una tosse che non è stata... cioè, perlomeno, curata, sì. Medicina la sto prendendo, facendo aerosol, lo sciroppo, ma niente, adesso ci vorrà sicuramente la... come si chiama? Non lo so, un medico ci vuole, lo ci so. Dice la fine. Antibiotico sicuramente, no vabbè. Beh, c'è stato, ci vuole sì, antibiotico, c'è qualche infezione. Luca, riservati, sai che devi dare sciroppo, antibiotico. Fate un bacià, anche se non andiamo male, no? Vabbè, così sto facendo antibiotico, non ne sto prendendo. Poi ieri stavamo parlando che stavo bene, tutto quanto. Ero qua, mi sono messo addormentato, mi sono svegliato che ero con la febbre. A 37,5, vabbè, minima, però c'era un po' di febbre, perché ero col freddo, a brividi di freddo. Vuol dire che hai preso il colpo d'aria nuovamente e sei caduto a capo. Al caldo, blu, devi stare sempre al caldo, non uscire fuori, che noi non passa questa malasorte. Lo so, no, vabbè, io già... vabbè, già sono uno che non è, si copre più di tanto, questo già lo so, non te lo posso garantire. Però dai, io mi sto coprendo adesso, non è che... vabbè, periodo suo. Comunque dicono che c'è anche febbraio di mezzo, bisogna stare molto attenti. Avanti tu. Io sono qua, no, mi sono distratto un po'. E ti devi mettere al caldo, non uscire per niente, devi essere al caldo, perché sennò è sempre, ti si alza, ti si abbassa, e così, io ma come gli ha mai fatto un vaccino baghissu. Vabbè, ma non la prendi pesante, capito? Te la prendi leggera, cioè di prendere l'influenza. Attento, lo chef. Ma gli si deve darsi cucato, gli sarà quello freddo. Vero, se non bacchi. Signor Giammaria, ha pubblicato. Oh, Graziano, c'è quei disegni. Graziano, mi ha attaccato alla stufa, mi sento vedere, la radio di Zeta. Andiamo. Oh, ioia. E allora siamo Bacchi, a piove. Bacchi, Luca. Ehi, attore. E adesso ti ho sentito bene, La voce non era rauca. Andave. Ma a me, attore, mi sono sdraiato, appoggiato la testa al cuscino. Oh, iaia, per carità. Sembra che in questi giorni mi abbia fumato chissà quante sigarette per stare così. Che non fumo da un pezzo. Senta che sei andato bene. Signor Bacchi, ma una gana oggi di favità. Signor Bacchi. Oh, ma ci andiamo a Lubacca domani a fare la sfora di bietole. Ma non posso prima andare a comprare a Miri. Ah, vabbè, con la scusa ti fa anche una passeggiata, non è perché uno non se li può comprare. Almeno sai quello che mangi, capito? Io la penso anche, quando vado a raccogliere le lumache so da dove le prendo, perché quando vai a comprarle non sai da dove le fanno. Gli asparagi lo stesso, le bietole. Ma no, con che suo tempo a chi ne va non acciappi? A esetta a giugno va, hai compreso? Ma chi? No, non ho compreso nulla. Non riesce a farla andare. Mentre mai? Abbiamo fatto frequenza? Beh, ma chi, se tu schiacci la A e B vai in A, e se no vai in B, capito? Ok, allora vai, schiaccia quel tastino A e B e vai in A. Cambia frequenza, c'ha frequenza A, frequenza B. Cosa adesso? La frequenza A ci metti due frequenze, no? La frequenza B ci mette altre due frequenze, no? Pi. No, mio chef, mio creatore. E per A e B, chi è A? Buonasera a tutti. Bacchi, asco, io sto andando a prendere la signora. Ci sentiamo dopo se ci siete ancora. Ok, a dopo. Ciao Tore, a dopo se ci sentiamo. Ok, bene mera, vai lui. Ciao Tore, a dopo. Beh, grazie. Ciao, ti stavo mandando un messaggio, vabbè, ti si vuoi entrare. Se vuoi entrare, entra, se no puoi giubare tu. No, che stavo facendo cosa? Nella stufa. A chi mi va, se lo prendo un niente, domani devo comprare la guarnizione che ci va sotto. Sei consumata e mi fa il vetro nero. Ah, per quello che fa il vetro nero, anche a Marina? Sì, ma sotto il cassetto, quando lo reggo per pulirlo, c'è un coperchio, ho svitto il coperchio e pulisco dove c'è la ventola. La sfido perché ogni tanto vuole pulito anche lì. E ho visto che la guarnizione si è tutta consumata, venite ormai di sbezzaretti. È sfiata quando la ventola è in funzione. Lupi vanno niente, capite, mi fa il vetro nero e tutto all'interno nero. Dunque domani devo andare a comprarla. A comprarla? Da cosa? Opera Palerugini, cosa? Mara, da Mara. Vende anche le guarnizioni dei tubi. Devo comprare anche le guarnizioni dei tubi. Non è la cordicella, è una guarnizione che c'è in questo tappo di lamiera. C'è una vite, si svita, lo sollevi e dentro lì c'è la ventola e io lì l'ho aperto per pulire. E la guarnizione c'è tutta frabbinata e consumata. Ci sono rimasti due pezzettini, li ho messi, ma però sfiata quando è in funzione la ventola e mi fa la tuffa nera. Ah, c'è anche lì, c'è. Ma nella corsia, e che corsia è? C'è, sono i tubi di roba varia. Bella! Ah, ci sono, ma già che confezionati sono, le guarnizioni dei tubi da 80. Ci sono 12. Ah, sono già in confezione, e all'interno della confezione c'è anche quello stufino, diciamo, va. Ci sono le guarnizioni sole, oppure le guarnizioni di quello stufino, ci sono più tanti. Vabbè, allora andiamo là, così vicino. Ciao Vittorio, ben sentito. Luca, ancora ci sei? Ti stavo chiedendo, tu il pellet dove lo compri? L'hai comprato da Eurospin? Sì, qualche volta l'ho comprato da Eurospin. Marina sta usando quello, gli sta facendo il vetro nero. Ma nero mi... Perché quello mi sembra che è faggio, mi sembra che sia o faggio oppure faggio e abete, non mi ricordo bene. O solo faggio. Però a me, io pensavo che era il pellet, invece stamani ho aperto il tappo per pulirla bene e ho visto che guarnizione è tutta consumata praticamente. Ci sono rimasti due bestiari di minori, compresi. Dunque tutta la circonferenza del tappo non lo isola e praticamente quando gira spiazza questo fumo nero che fine fine e mi fa già stufanista. Beh, grazie. E ieri ho cambiato anche il portacenere perché si era rovinato, si stava spaccando, l'ho comprato nuovo. Il braccierino, capito, e vabbè, boh. Adesso l'unica è consumarsi questo, il pellet. Non vorrei che anche lì abbia le guarnizioni magari un po' mezz'andate e fa lo stesso lavoro che fate. Io quel tappo, quando leggo il cassetto grande, sotto c'è un coperchio con una vite, con una brugola. Molli la brugola ne c'è questo tappo e all'interno lì sotto c'è una ventola e quella ogni tanto vuole pulita, infatti l'ho aperto e c'era purigine c'era. Era cubaccata brutta, l'ho tutta aspirata, l'ho liberata, capito? E poi l'ho rimessa, però guarnizione io, finiranno i due pezzari e ci sono consumati dalla zona. Oh, ce l'ho 9 anni, mi, noi che va una di, Ah, ce l'hai 9 anni, guarda, quella di Maria, cioè, quanto vale? Un anno? Un anno solo. Un anno, cioè, non penso che ci siano già le guarnizioni. No, lì vuol dire il pellet, io in questa devo adoperare solamente pellet abete bianco. Cioè, però qualche volta che non c'era quello, ho provato anche quello di Ruspin, quello di Ma, di Coso, di Predanietta, però mi faceva il vetro nero e lo bruciava male anche. Ho capito. Vabbè, con le Maria c'è un anno, penso che le guarnizioni siano a posto. Andava. Ebbè, Vittorio. Vittorio è caduto. Bacchi, riprendi tu. Io sono caduto, mio, grazie a voi che mi senti. Allora rispondi, ti ha chiamato Luca. Ah, Luca, ma c'è? Sì, te ben tu, non rispondi. Che ti capi bravo, Stavate sempre parlando tra di voi. Io ti ho rilanciato e non hai ripreso. Riprendi per i fatti tui. Dove sei? Ma sei vicino a me, qua in zona Santa Maria di Pisa. Sì. Ma sei sotto casa mia? Sì, ma mi sono sotto casa tua. Ho capito, a che numero sei? Sei anche sotto casa mia, adesso vediamo. Dai, qua è vicino al campo sono, in pratica, là. Vicino al campo non è impossibile, io non sono vicino al campo. Ma sì, che zona abiti? Sono proprio nella piazza, vicino a Graziano. Siamo vicini? Più o meno sì, dai. Siamo vicini con Graziano, molto vicini. Ia, vero Graziano, vicini siamo. Dove c'è il treno? Vicini, non siamo vicini, dietro i palazzi. Il treno senza carbone. Intanto viene a farmi le coccole, che va a farmi la schiena, vero Grazia? Eia, con il rastrello per fregarlo bene. Dai, dillo ogni tanto che viene a coccolarmi, ma ti vergogni, boh. Già lo so, gli porto anche le caramelle, ciupa ciupa, capi? Ti bacio per il cuore a capo. lui. Vito, sentito hai? Ci ho sentito. Se non gli porti le caramelle ciupa ti mette a piangere. Ma chi mi buona pigni, ma grazie, ma tendi numeri sì. E così è fatto Luca, mi te lo faccio dire da Bacchigio, diglielo tu Bacchigio. Mia, bisogna portare le caramelle ciupa ciupa e i biscottini che ti trovo la cioccolata e lui sta bene. Guarda se puoi andarci con un pacco di biscottini. Vittorio è caggiunto, grazie. Beh. Guarda che mangia pavesini, mi. Luca, pavesini sono. Ma Luca si è parato un pavesino. Luca è andato a mangiarsi una caramella. Le avete cercato le caramelle, ma è andato a mangiarsi una caramella menta, paraola. E allora? Se viene qua gliela do io la caramella, ce l'ho, quella verde, della montagna. Grazie. Ah, salutala da parte nostra. Pacchi e Johnny Maria non si è sentito. Johnny Maria non si è sentito stasera, boh. Ieri sera l'ho sentita Johnny Maria, 2 minuti e poi è salito. Ma chi ti sento ben male? Ma dove sei, in che punto sei? Ma chi sei in soffitta? Vittu. Ehi, ha sorriso. Ma mi sei, perché non mi ascolti, Vittu? No, ma adesso ti sento bene. Allora, perché stavi per brontolando e non mi ascoltavi. Grazie, a poni la lenta che vicino. Guarda che anche Bacchi Genzona qua, mi, Vittorio. Dove sei andato ai Salesiani? Noi da Salesiani me ne sono andato, ne avevo voglia. E vattene a casa che c'è freddo, in giro così. Ehi, a ti credo. Ti metti il cappuccio e te ne vai a casa che c'è freddo. No, la befana in giro e si cattureggia. Capito, tu? C'è la befana in giro che si cattura. Sì, la befana, mi sembra la befana per la piglia a te. Quella scoppa antica, vero Bacchi? E poi che grosso, un roccio mi. Agliastro puro, mi grazie, agliastro puro, E allora? Chi si è tolto qui la palla, Ehi, dimmi grazie, tu ci metti la valla. Ehi, c'è la befana, viene di notte con le calze tutte rotte. Chi me li ha sapessi allora? E a te il carbone te l'ha portato? Neanche uno. Ah, allora ti ha portato il bonbon. Il bonbon mi ha portato, Nel butta mia zia ha travestito la befana. Hai compreso Bacchi, gli ha portato il bombo e a te cosa ti ha regalato il Beffano? Beffano piccolino mi ha portato, cosa? Pova lei la Beffana che hanno con Grazia, e la bovola, a cantare via noi che non va via più nuda. E a te cosa ti ha portato Grazia, un po' di carbone? A me mi ha portato un soldatino inglese, con quel basco. Lungo, tutto nero, il cappello, quello tutto... Che pare, cosa pare, Bacchi, il tuo cappello degli inglesi? Cosa pare? Un cappello degli inglesi, cosa vuoi assomigliare? Non so che cosa assomiglia questo cappello. Non lo so, Cristiano, non specificare che cosa. Sono qua in ascolto, già riprendo tra un po', sono qua comunque. Manco male, mi stavo preoccupando lui. Ehi, preoccupante se mi studio. Male, aveva fatto andata grazie a canno, male. Voglio arrivare un po' con dei sacchi di belle, che invece avevo un'aiuta dei gaiboni. Manco valve il cupo e attendi. Mamma, riprendi. Ehi! Come mai non sei sentito per niente? Neanche tu l'hai sentito, Vito, a Gio Maria. Non ce l'ha pigliato l'influenza, grazie. Non ce l'ha pigliato l'influenza, Gio Maria. E dunque la posa a KO. A me mi sa che è in giro in bicicletta, in motobicicletta. E poi lasci pure sia in motobicicletta, vende su un giro. Si è andata a Platavola, sta una voce a Caradeva. E allora, di chi sa Sarita? Se la messa la mastra bisogna andare a Portoferro. E voi si arracchi, allora venite con 30 a casa Ruggaccio, che non ha più Ruggana, dai. Se va tutto bene ci risentiamo domani. Ehi, ciao Vittorio, a domani, vai Bacchi. Ehi, ciao Vittorio, ciao, buona serata. A domani c'è stato coincide. Anda bene vita. Buona serata anche a te Bacchi. Luca, finito. Sono qua. Ciao Vittu, alla prossima. Capito mi hai. Il portacenere l'ho comprato nuovo. Me l'ha portato fino a casa. Ieri. Mi ha fatto un bagaglio 60 euro. Ma dove l'hai comprato? da a Porto Torres, da qua è un tipo che c'ha il negozio a Porto Torres, che va a pulire le stufe, le vende, ne piazza, capi? Che non le paga tutto troppo. Se lo vuoi subito costa lui, ma l'ha portato fino a qua. Va bene. Però è quando mi arrivi non lo so. Qua ce l'hai subito, siccome io ho visto che è gonfiato e non tocca, va bene la base giusta. E poi si è spaccato al centro. E tu con andate a me? Ho capito. Va bene comunque. Ma ci vuole il suo, no? O va bene qualsiasi? No, ognuno faccia il suo portacenere. La mia è una Monia. Ti dici la marca della stufa e il codice della stufa. Lui lo ordina e te lo porta. L'altra volta, quattro Cito non me l'aveva dato. E lei ci va? Quello sì, perché lui quando ha fatto l'ordine ne avrà ordinato una diecina e ce l'ha in negozio, capi? Se serve a qualcun altro ce l'ha già lì, capi? Avvicinato, grazie, l'avriti. Cosa? Avriti ha portato e si è andato a prenderlo. No, me l'ha portato lui qua, non ci sono andato, io l'ho chiamato, gliel'ho detto al telefono e mi ha detto che me lo passava stamani, no, stamattina me l'ha, no, ieri alla 1:30 mi pare me l'ha passato, un orario così, e stamattina l'ho messo. L'ho portato fino a casa, andava bene, allora, senza fatica, senza niente. No, sempre fino a casa me lo porta. L'altra volta mi ha portato il display che era partito. Avevo pagato 136 euro tutto il display di sopra. E un'altra volta il vetro dello sportello si era affilato in un angolino e me l'ha portato e me l'ha piazzato con la guarnizione nuova e tutto. E lì avevo pagato sulle 70 euro, una cosa del genere. Sì, si fanno pagare. Già sono delicati. Ma purtroppo se c'è il ricambio ce li hanno loro. Se voglio me li ordino io. O da fuori. Per un indomani. Ma hai cosa ne so? Magari ce l'ho già 9 anni o è nuova la mia, non va un pizzico. La cosa è stata vera, dura una vita. Se la usi con i piedi non dura nulla. Io la pulisco tutti i giorni. Sul certificato c'è scritto pulizia ogni 2 giorni. E ora burugna di tanto, cosa vi pongo? 10 minuti. Ma la pulisco ogni giorno. Perché anche la pulisco ogni giorno. Ogni mattina la prima cosa che fa è aspirare la stufa. Ma sei pronta a partire? Io l'aspiro, pulisco il vetro con due pezzi scotte, uno umido e l'altro asciutto. L'aspiro bene, svuoto il portacenere, il cassettino e la lascio pronta a accendere, pulita. Pronta a partire, grazie a sempre vuole, sempre pronta. Il vetro diventa un po' nero, non gli va tenuta, va a pulirlo. Si vede nero quando sta tutto il giorno in funzione, se no nulla. Va bene, il pellet è a vette, lo che fa poco fumo qua. Infatti la vette il fumo non ne va di nulla. Però se c'è qualche fiato come adesso, quella è la furigine che la ventolina come gira me lo fa uscire da dove non c'è la guarnizione e mi fa dire lo prendo niente la stufa nera dentro, capi? Adesso io domani la copro, lo pulisco bene e gliela piazzo. Infatti la piazzi perché la fascia piazzale E si era le collezioni lo stesso, era una capolata. Ehi, l'hai pulito tutto. Ha fatto ieri anche stamattina, gli ho puliti i tubi. E siccome avevo preso quel del pellet che non serve a niente, quello lì, perché non aveva trovato altro, e mi ha sporcato di nuovo il tubo. E io stamattina l'ho ripulito, capito? Ah vai domani, la donna pulita raddutta, mi tiro buoni giù per i buoni, donna. E gli metto quella guarnizione. Non c'è lo scopolino, non ce l'hai. No, io lo levo, gli metto una busta sotto, no? Dentro la busta. Mi come un paio di basinati con il manico del cacciavite al tubo e ne va raddutto. Ah, va bene. Io adesso non so, io si stacca già. Ma si stacca, io ho un pezzo di rete, scendo la lenza dal terrazzo, ne vado avanti, attacco la rete, tiro, esci pulita pulita. No, io non lo levo, ci metto la busta sotto, la faccio mantenere da mia figlia. Quando faccio i colpi con un manico di lunga c'è vita in gomma, no? E li farà tutto dentro la busta. Poi non lo levo del pulito, e spero di una piazza. Via, mi va a fare così, se vuoi che funzioni. E va benissimo la stufa. Poi il pellet, basta comprare quello buono. Non bisogna guardare i 10 centesimi, sennò proprio in corso, in tempo è denaro. No, guarda quello che ho comprato io, è abete questo, abete proprio. 5,50 lo pago. 5,45. Abricomen. Qualche volta lo prendo anche l'abricomen, e quello lì l'ho preso a Canica, dove prendo la bombola. Sì, ma cos'è quello svizzero, quello con i sacchetti trasparenti, la scritta in rosso? Quello è abete, è pure abete, ed è buono. Quello è pure abete, poi c'è il Nordica, che è metà abete e metà faggio, e costa 5,25. Anche quello già lo adopero, quando non c'è l'abete adopero quello, già funziona lo stesso. Anche quello va perché è così, quando non c'è abete qualche sacco di Nordica lo prendo, ma questi giorni ce n'è un male venire di cose di abete. Già si trova adesso, non è come prima, dove vai che giri già ne tru. Rilancio a Luca e mi assento 2 minuti. Vai pure 10 minuti e siamo qua. Sono qua, Tino, grazie, ho quasi finito. Yeah. Allo? Avanti? Yeah, buonasera, che sei? Beh, sono da chiesa, come andiamo? Ciao Marino, ciao. Sono in quel Rix di Graziano. Sono andato a prendere la signora e dunque c'è Luca anche. Ecco, sì. Un po' bassino come la radio, sì. Qua c'è anche affrontato, cioè. Sono col portatilino. Però scontenta la sorella. Già va bene. Già arrivi, tutto a posto. Graziano, come sei tu, che finito hai? Lasciate in ufficio un attimino. Ok, ufficio. Bene, Meda. Sì, stavo spazzolando, si stanno pure roba. Non si sente nulla. Ecco, se senti a tuo cugino, fatemi mandare la foto su WhatsApp, sulla roba, poi me la mandi a me. Sì. Foto di che cosa, grazie, Marie? La questione che abbiamo parlato stasera, che ti ho chiamato, qua l'apparecchio. Ah, quella Gigio? Sì, fatti mandare la foto su WhatsApp e poi tu lo mandi a me, quando ci sentiamo. Io. Domani adesso senz'altro impegnato con la cena, perché lui a quest'ora è ai fornelli preparando la cena quando viene la moglie. Ah, giusto. Quest'ora sta a fa il cuoco, meglio così. Meglio guy. Tore! Tore, mi è arrivato. ha smesso di piovere, ha fatto un coso bloccante, e ci quanta acqua che ha fatto? Come lo sa? Non ha piovuto la feroce o Bacchè? Non facciamo niente. Sciopero domani. Domani sciopero, domani ti riposo un po', dai. Sì, toia. Ti riposo di quello, va. Ma qua la dolorissi così è? No, non ti è passato niente, no? Uia, guarda, in piedi puoi stare un po', se ti inchini sei potuto. Nel letto, anche nel letto stai male. Dico che mai, non devi trovare una posizione, ti addormenti, quando ti svegli non dormi più perché non trovi il punto giusto da dormire. Gira che ti gira trovando vecchiaia e mi marì, tutto vecchiaia quella. Carogna e Bacchì, Carogna, non c'è nulla da fare, già messo qualcosa, si va. La Saschia, sai dove dicevo io molte volte? Uia, qui sono tre cose che facevo da giovane. C'ho un dolore di braccio ancora, poi quando, due anni fa ho fatto un bel po' di punture perché avevo flamma di schiena, ma di gamba non avevo una cosa famosa. Già ne ho fatto poco di punture. Ciao Mari! Buonasera signor Graziano. E allora cosa stufa? Abbiamo riparata, sì? Il portacenere l'ho comprato. Adesso domani compro la guarnizione del tappo dove c'è la ventola. Perché sfiata a purigine e mi base lo prendo niente e la stufa dentro nera. Infatti l'ho pulita verso le 6. L'ho riaccesa, adesso sta cominciando a far messo in nero di nuovo. Sì, perché è sfiatta, grazie. Perché è sfiatta. Vai al bricco, nella corsia centrale, ci sono i tubi della stufa pellet e poi ci sono tutti i tipi di guarnizioni. O ti prendi il kit, c'è il kit con silicone a alta temperatura insieme alla guarnizione, oppure ti prendi le guarnizioni quelle da 80, che sono costa una fesseria, costa intanto. No, compro tutto completo, perché mi serve quella guarnizione che sembra canapa o stupino, quella di quello sportellino. E anche quelle dei tubi le voglio cambiare perché due sono spaccate. Si consumano, ho capito, staccate, magari se la consumate, mangiatevi. Quello lì è molto calore, sì. C'è il kit completo, grazie. C'è la guarnizione tipo cos'è? Amiantita dovrebbe essere tipo canna, diciamo, amiantita là. C'è il silicone adatto e così via. Ti copri il kit e fai prima e non sbagli. Bene, un attimo lancia Bacchisio, avanti Bacchisio. Io gliel'ho detto a Graziano poco fa. Che nel corso della busta c'è tutto. C'è tutto, c'è sia la guarnizione, sia la cordicella, tutto quanto la roba che serve per fare lo sportello. Fai il primo. Io ho fatto la roba, la stufa. Ho comprato il tubo, dietro c'era il tubo che le prendevano da. La mia è ventilata, no? Manda a charge 6 motori, 2 motori davanti. È un motore dietro dove ti manda l'aria. Ho preso il tubo di rame, la 60, io l'ho messo sul travone in legno, ho fatto il buco nel bagno e c'ho sempre l'aria diretta, la camera letto già la scalda. Punto, sono nella casa, rimane in magliettina. E ti scalda anche il bagno, ti l'ho compreso, ho capito. Già va bene, avanti, grazie. Eia! A me mi serve la guarnizione del tappo dove c'è la ventola e le guarnizioni dei tubi che sono da 80. La guarnizione... Mettiti bene che non si capisce nulla cosa stai dicendo. Cata, signor Bacchi, buonasera, che sono entrato. Avanti, grazie, riprendi ancora tu. Ciao dottore, ben rientrato. Capite, in quella busta che guarnizioni ci sono, Bacchi? Tutto ci sono guarnizioni, grazie. Non prende nulla, grazie, così a Gedizè, sei fuori segnale. Dei tubi. C'è dello sportello e la cordicella e roba varia. E c'è l'altro che c'è altra roba dentro, l'ho guardato, non mi sono interessato, perché stavo cercando quelle delle cose io, dei dubbi. Poi ho detto al commesso, lo chiedi al commesso, ti accompagna lui se dove lo trovi. Ma chi? Anche tu sei fuori segnale. A volte ti sentiamo, a volte no. Tramite, attraverso la busta. Un attimo, Bacchi, scusa. Ma come stai ricevendo tu agli altri? Io ascolto bene, sia Bacchisio sia Graziano. Se tu stai sottomodulando a Graziano, a Bacchisio e tu. Ma non te ne sei accorto? Pare che siano tutti canti, trinchi, senza segnare. A cosa? A coipi. Ma io qua ricevo bene, sia uno sia l'altro. Anche a te arrivi forse lo stesso, ma le sei stato modulando. Non è che sei tu fuori frequenza, va, poi la capire giù su dove ne tanto. Avanti, va chi? Sì, attore, io lo ascolto bene, attore. Basso ma chiaro, limpido. Avanti, to. No, ma che non è capitato che l'elettore ha detto che mi sente a tratti, sia te sia Graziano, è come sia fuori frequenza. Io mi ascolto benissimo, sia te Graziano e anche a Tore, non c'è niente, forse lui fuori frequenza. Avanti to, Tore è caduto dal letto, avanti Graziano. Ehi, ho detto, questa busta, attraverso la busta le vedi le guarnizioni, si vedono, Bacchi. Sì, è una busta trasparente, Grazia, si vede tutto quello che c'è dentro. Ah, ecco, va bene, ok. Ah, parti, Tore, ma caduto sì. Non è dove Tore è caduto, non ci credi. Tore, squalo bianco. Tore non risponde più. Signor Tore. Tore, c'è problemi. Ciao, Marino. Buonasera Luca, tutto bene, sì? L'influenza è passata? Sì, qualche residuo, dai. Però Graziano, tu soprattutto gli altri, a Tore, a tutti, dai il tempo anche tu. Mi sembri quel bambino, mi sembri, capo. E se Tore non sta parlando, l'ho rilanciata e non si sente. Non lo sentivo sotto di te, Tore, vai a casa sua e schiaccia lì i ditti, vai. Luca, Tore è caduto, non hai capito? Tore, sono da balla, avanti da chi? Non ti ho detto, c'è problemi quello lì, c'è problemi con la radio, se no questo non avrà risposto. Oppure è andato nell'ufficio piccolino e ci è sceso dentro. No, perché ha detto che vi sentiva tratti e come eravate fuori frequenza, tu e Graziano. Io vi ascolto abbastanza bene. Ah, c'è entrato Luca, tutto bello sparato, e arriva forse lo stesso. E lui forse fuori frequenza. Tore! Negativo, avanti Luca! Eia, ma vi fanno lavorare se piove, non credono. Ma con me ce l'hai Luca? Allora, con te allora. Noi lavoriamo sempre, non hai capito? No, noi, quelli che fanno gli aggancini che sono sul camion, lavorano. Se non che non sia forte, allora si siede in camion e basta. Noi, se piove, rimaniamo nella moto, hai capito? Ma se fitta io prendo il cammino, se è proprio leggera, intanto se siamo coperti, là, c'ho il cappello, c'ho il coso, acqua non entra. Ma se arriva forte, o ti siedi morto o te ne vai solo un po' giù e basta. E ti passa l'ora. Se lo devo Luca, che non passa mai l'ora, io non ho, è quello che mi ha fastidio, non passa l'ora. Io sono abituato a camminare la mattina, capito? Ormai è fermo in moto, non ti passa più. Ah, se piove dovete stare in moto per fare orario, così è. Allora, e come fai a lavorare? Non puoi lavorare, capito Luca? Tutto qua. Invece gli arancini devono lavorare, perché c'hanno impermeabili, vabbè ce l'abbiamo anche noi, però loro sono obbligati, se lo metto perché sennò si fanno una cacca, diciamo, là. Noi se piove ci mettiamo sotto, o dentro la moto oppure in un po' in corso, nei portoni e così via, dai. Fino. Vabbè, se piove rimanete in moto, comunque sia la strada rimane sporca, poi magari... Un attimo Luca, c'è la Tore avanti, Tore! Ehi, adesso non lo so se ti sento bene, ho cambiato apparato a vedere. Adesso ti sento, prova a modulare. Sì, a me già mi intendi pure l'ansura, non lo so se è colpa dell'apparato, Andate, signor Bacchi, Ehi, Atole, adesso poi mi ascolti. Adesso sì. Ma Graziano che intendi a colpi. Non era parlato tuo che era mezzo malandato. Avanti, Graziano. Pallato, te lo dico io. Graziano ha le sue cose questo mese. Ehi, cosa c'è l'attore che sei sparito? Ho provato a cambiare l'apparato a vedere. E allora dipende dalla te, la batteria scarica. Ma questo non ha batteria, questo funziona a 12 e boh. Ah, e l'antenna c'è collegata, sei sparito così. Che cavolo, ne so cosa gli ha preso. Boh. Non è che hai imbagliato gli spinotti, più e meno. No, oh, vi ascoltavo a tratti, vi ascoltavo. Beh, io ti sento bene. Ma chi io ti sente bene, Luca, lo stesso. E Marino, lo stesso. Beh, avanti, lui. Ma so che sto parlando qua. Ehi, allora avanti, Bacchigio. Ehi, ehi, Antone, poco fa ascoltavo a tratti, perché il suo baracchino era ubriaco, capito, grazie. Era ubriaco e non usciva di voce. E poi è diventato anche sordo, capito? Quella lì è la mala sorta che c'aveva. Avanti, Tore, riprendi ancora tu. Sì, va. Con chi sono? Non penso che arrivi a tratti, va. No, se arrivendo a tratti, se arrivendo bene. Vediamo da Marino. Marino, bene lo ascolti. Io ascolto bene, ma anche poc'anzi ascoltavo benissimo. Io... sto modulando a voi, a te e a Graziano. Qui arrivava forte, vi copriva tutte e due, figurati. Avanti, tu. Sì, no, ma Graziano, deve essere che si spostava lui e non l'ascoltavo, boh. Mica sono fermo in cucina e nella stessa posizione. No, non mi sono mosso per niente. Sì, anda, beh, anda. Va benissimo, da. Anzi, adesso ne approfitto a salutarvi, che chiudo che mi devo fare l'insulina. Ciao Tore, ciao Marino, ciao Bacchigio, ciao Luca, ciao chi è in ascolto. Ce la risentiamo domani, rilancia Luca, aspetto il finale e me ne vado. Ciao ciao a tutti, vai Luca. Ciao, grazie, buonanotte, saluta la Paoletta anche da parte di Marina. Buona cena, avanti Tore. Tore caduto nel letto, ok, lo saluto io là. Bene, ciao, grazie, ben sentito, saluto in casa. Ci sentiamo domani se coincide. Avanti, Bacchiglio. Ehi, ehi, salutiamo Graziano, ciao Graziano, buona serata. A domani, se tutto va bene, saluto la signora. Avanti, Tore, ci sei? Ehi, ciao Graziano, stammi bene, sogni d'oro, eh. Anda, beh, riprendetela, Marì. Beh, bacione, mi domanda, e tu, Graziano. Hai sentito, grazie dottore, ti ha mandato un bacione grande grande. Ciao ciao! Un boccione pieno. Grazie, nulla ti è arrivato. Si è assustato, si è apparato, si è assustato e si è sudato. Vale, la diretta ha fatto. Grazie a domani. Bene, avanti, signor Luca. Sto parlando con il verticale con la 25. Ecco la signorina, bene. Avanti, Tore, bene, i cucciucci in paese? Eh? I cani dove sono, in paese? No, uno ce l'ho qua, l'altro è in campagna. Ah, sei per il solito posto, sì? Sì, qua il lupo non ci posso andare con questo tempo in di andi. Senza ben, chi via, Edo? Freddo, io nonna, non ti preoccupare. E appunto, poi stasera te l'ho inviato, perché sta, l'ho fatto un po' con Eva. Vai sulla campagna inzuppata. Adesso domani compro un po' il riso e cerco di piantare il riso. Avanti, va chi? Domani si lavora. No, domani sei libero tu. Sì, domani dopo che esco dal lavoro. Dopo le 11 e mezza sono libero, va chi? Giovedì domani. Mezzogiorno non sei libero. No, io lavoro fino alle 11 e mezza, poi sono libero. E venerdì uscirò alle 3 e mezza, o 3 e 20 o 4 e 20 dalla mattina. E sabato, se secondo che autista trovo, uscirò alle 2 e mezza o alle 3, là. E secondo che autista è, perché io esco alle 11 e 20 e lui, prima di arrivare io, lui si fa un po' di giri e recupera qualcosa. Poi quando arrivo io ci facciamo il centro, lui al centro non può andare perché non ho l'orario, trovo presto, ho capito? C'è la gente in giro e ha problemi, tutto qua. Poi alla prossima settimana sono libero, faccio solo fino alle 11:20, capito? È un servizio che faccio una settimana sì, una settimana no, in più, insieme a un collega. Avanti, va che? Io sì, è meglio che ci lavora. E mo che? Anche quello che c'è da fare. Se vuole che il coso vada avanti. Invece tu non c'era questi problemi adesso. Ma penso che se, però a giorni lo chiamino, Se che comincia a mucchiarsi la modesta come Roma, lo mandano a Roma per fare pulizia ai pensionati di Sassari. E avvero mio via, mia gazzotto, per carità. Adesso sta succedendo che Scala R, dove noi buttiamo il secco, la domenica sta chiudendo, la domenica, e lunedì si trova doppio lavoro, capito? Dunque i cassoni raddoppiano, dove ci sono tre cassoni, tre tizi di secco, minimo sono 9 cassoni di secco, perché sono 2 giorni che non escono, è un casotto. È un casotto. La scusa che non voglio aprire, c'è il motivo, ci sono stati dei problemi, dunque non voglio aprire, tutto qua. So che mettono in casotto, anche lunedì c'era un casotto, i mezzi erano tutti carichi, non potevano scaricare perché la domenica non hanno scaricato, capito? Dunque sono usciti tardi. Per esempio, se in via Brina Sassari il secco va svoltato alle 7:30, 8 anche tardi, va svoltato ancora più tardi, figurati. Sì, il genitore bisogna aprire, è bruciare, ma se non fare come facevamo prima, mettiamo anche a borsire quando le concime. E siamo a Napoli, a Roma e così via, vabbè, Roma perché è tutto un blef, Roma è un casotto. A Napoli se ne frega, figurati. Avanti, mandiamo a Torre che è in ferie a lavorare. Ah, ci viene a lavorare, tu? Sì, finirà. Finirà, che se venga a lavorare me ne bisogna la pensione, me ne bisogna. L'ho preso. Ma sto bene come sono. Ha già travagliato c'è gira, ha già travagliato, quindi cosa vuoi di più? Anda, beh, anda. Dai, dai. Vabbè, io ne approfitto a misocciamenti. Ci sentiamo domani se tutto coincide, Mari. Ciao, Bacchisio e ciao, Luca. Ok. Ciao a tutti. Ok, to, scusa un attimino, quanti anni ci dico con noi? 25 anni ci dico con noi, 30 anni? Sì, 25 anni, 26 anni c'ero. Caspita, 26 anni, poco, 2 giorni domani. Bene, ciao Tom, hai sentito, sono in casa, domani si concilia. Avanti Luca per Tore. Ciao Tom, buonanotte. Va bene, approfitto anch'io che sto andando a preparare la cena, dai. Ci sentiamo, ciao Marino, ciao Bacchisio. E c'è anche l'ascolto. A domani, buonanotte, ciao Mario, riprendi tu. Ok, riprendo io, ciao Luca, ben sentito, salutoni in casa, saluto la signorina. A domani se concilia avanti o Bacchisio. Io salutiamo a Marino, a Luca, ciao Luca, buona serata. Buonasera anche per Tore. A sentirci domani se tutto coincide. Bene Maria, anche io è arrivata l'ora anche per me. Io devo lasciare, così sentiamo domani, o ce la vediamo un po' se le cose coincidono. Ciao, buonanotte, a domani Marino. Ok, ciao Bacchi, ben sentito, sono in casa, va. Se in caso ti chiamo, devo stare, sempre al solito. Domani si coincide, ciao, beh allora chiudo anch'io, saluto in tutti gli ascoltoni e QRT per me, ciao. Ehi, adesso chiamo mio cugino e mi faccio mandare quello a posto. Così domani se ci troviamo te lo faccio vedere. Benissimo. Ciao ciao. Ciao ciao Marino, ciao. Mi ricevata. Avanti, avanti che vuoi entrare? Ma tu sei il segnale giusto. Avanti, chi sei? Posto Mike in ascolto. Ragazzi, vi ricevo male. Se mi confermi che mi ricevi.